快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说不入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游。 越狱的革命党人而被警察局逮捕，画家的恋人歌剧演员托斯卡找到警察局长斯卡皮亚求他宽恕，斯卡皮亚早就垂涎托斯卡的美貌，于是便提出要托斯卡出卖自己的身体来换取卡瓦拉多西的生命与自由，假如托斯卡同意，他可以执行一个假的死刑。为了比如托斯卡的咏叹调，为艺术，为爱情，卡瓦拉多西的咏叹调多么奇妙，多么和谐，与今夜星光灿烂等。一百多年来，这些不朽的旋律不仅经常在歌剧演出之外的音乐会舞台上被广为演唱，而且还成为了当今许多国际声乐比赛的重要参赛。 Angelus Domini nunci avit Maria, et concepit de Spiritu Santo, et ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Recito Angelus. Preghiera, io le vinsi non mi sposto. bel sembiante. Fuori, scappa fuori. Gente là dentro! sventare pubblica romana. Non ci parola la castenza, mi spavete a dire. Gelatevi, è una donna gelosa. Un breve istante arrivando, eccomi. Sono strema di forze più non reggo. Questo paniere ci vuole Dio. Grazie. Presto. Grazie. Presto. Mario, Mario, Mario. Sono scusa, avverrà. Thank you. Il periglio corre dal pozzo del giardino, l'acqua è nel fondo. fondo ma mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro scuro rifugio impenetrabile e sicuro. Ne son dovente, chi contrista mistren, e si guadagna un'indulgenza. Non capire la fantasia, ecco, la parte fia, non sapete, una parte, se ne ha fatto, una parte, ho svegliato, sono scaldato e mi ho fatto del tempo. Io mi sono mia folla e mi ricordo forse giunse la notizia sempre senti la vittoria e questa sera grazie a Comana veglia di gala a palazzo Sornese ed una cosica nuova cantata con gloria tosca e nelle chiese inni al Signore. Non vi avvestirvi, non più favor, figlio, figlio, figlio, figlio. Prestate per il Tedeum. Tu resta un nuovo e tu va frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia. Va bene. Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te esale tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui? Ricordo. Forse c'è ancora dove la cappella di Attavanti. Eccola. Aperta, arcangeli. E un'altra chiave. Un indizio. Entriamo. Fu grave sbaglio quel colpo di cannone, il mariolo spiccato e il volo, ma lasciò una preda preziosa. Cavaradossi e lui lui il cavaliere lui la mano di tasca un uomo sospetto un volta di lui vuoto, vuoto. fatto? E detto che fu? Si ritrò nella cappella questa bandiera. Tu la conosci? Certo. Il sesto del pittor, non di me. Sputa quello che sai. Io non la sai pieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor avrà pensato. Nella cappella non ne aveva la chiave, ne contava a pranzar, disse di stesso, oddio l'aveva già messo al ritratto. Libera me, promine. Or tutto è chiaro, la provvista del sacrista d'angelo ti fu la preda. Tosca che non mi veda, per ridurre un cielo se lo sbaraglio mi avevo in fazzoletto e di un ventaglio. Mario! Mario! Cavaradossi! Chissà dove sia, svanisca, taglialo per sua stregoneria. fiori belle, lacrima scende sovra le belle guance lei rona. Dolce signora, che mai fa ancora? Nulla. Pare la vita per asciugar quel pianto. Sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi. Va bene, il convegno. Palazzo Farnese. Thank you. capo del ribelle e la più preziosa di quegli occhi vittoriosi vela la fiamma l'inauguilir con salti 听众朋友，刚才您欣赏到的是由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》上半部分录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友大家好，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来请您继续欣赏帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》下半部分录音。 Quest'ora i miei segugi le due prete azzannano. Domani sul palco vedrà l'aurora Angelotti el bel Mario alla comprendere. Ostia palazzo, un ciambellan ne uscì a prora in caccia. Questo biglietto ella verrà, per amor del suo Mario. Per amor del suo Mario, al piacere la profonda miseria. So trarre accordi di chitarra, l'oroscopo di fior, né far l'occhio di pesce, o trovar come torna. La cosa bramata per sempre, me di sazio e di leggetto, galantuomo, come nella caccia. Santiglia, sua madruta, della signora seguimmo la traccia, giunti a un terma di me, a tra le tratte perduta, e la ventrò, e si sarà ben presto, allora scavalco l'esco il muro del giardino con i cagnotti, e piombo in casa. Quel bravo spaventa, Angelotti! Non si è trovato! A cane, a traditore, ceffo di basilisco, e parte! Gesù! C'era il pittore... Cavare Dossi! E il sa dove l'altro fa sonde, ogni suo gesto, ogni accento tragia, calme farda ironia. Io lo trassi in arresto. Meno male. E mi è là. Introducete il cavalier. A Camero Verdi e il giudice del fisco.